Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera e benvenuti a Smart City. Il prezzo dell'anarchia è il prezzo che tutti noi paghiamo ogni volta che ci sediamo in automobile, magari inseriamo una destinazione nel navigatore e poi seguiamo le indicazioni del navigatore, ma questo navigatore tiene conto in modo molto parziale delle intenzioni di tutti gli altri utenti che si trovano per la strada, mentre un coordinamento centralizzato più efficace potrebbe portarci a fare delle piccole deviazioni che però nel complesso riducono il traffico e quindi riducono mediamente anche il tempo che impieghiamo per raggiungere la destinazione. Di questo abbiamo parlato ieri con Valentina Morandi, ricercatrice della Facoltà di Scienze e Tecnologie della Libera Università di Bolzano, esperta di algoritmi matematici applicati alla logistica delle persone, quindi quella che ci riguarda più da vicino. E questa sera continuiamo a parlare di questo tema, ma rivolgendo la nostra attenzione al mondo dei trasporti pubblici, in particolare nelle aree cosiddette remote o comunque aree nelle quali i mezzi pubblici per ovvie ragioni sono meno disponibili, perché si tratta di offrire un servizio a un numero limitato di utenti, magari molto distanti fra loro. Anche qui però si può fare qualcosa per ridurre i tempi e aumentare l'efficienza complessiva del trasporto pubblico. Benvenuta, bentornata Valentina Morandi. Grazie, buonasera a tutti. Dunque Morandi, lì soprattutto dalle parti in cui si trova lei, vive lei, quindi la provincia autonoma di Bolzano, capita spesso che le persone siano sparpagliate su un territorio per il resto abbastanza poco popolato. Allora, state ragionando su due possibili strade, due paradigmi, diciamo, per migliorare il trasporto pubblico. Quali sono questi due paradigmi? Il primo paradigma, conosciuto in inglese e tecnicamente come dial a ride, è semplicemente il servizio a chiamata, il che vuol dire che non viene previsto un servizio pubblico come gli autobus, che hanno degli orari prestabiliti in cui devono passare per raccogliere gli utenti, ma semplicemente un servizio che viene effettuato solo nel momento in cui c'è l'effettivo bisogno del servizio. Questo perché è importante perché nelle zone montane, ai noi, comunque ci sono poche persone a richiedere il servizio deve essere fornito perché non si possono lasciare scollegate alcune aree montane e quindi di conseguenza abbiamo dei costi molto alti. E il paradigma del dial a ride e del trasporto a chiamata è questo. Ecco, che implicazioni ha però? Bisogna utilizzare per esempio dei mezzi di trasporto diversi? È possibile immaginare anche di coinvolgere il privato? Io penso sempre, mi domando, quando vedo un autobus vuoto viaggiare a luna di notte, se non era meglio dare un rimborso a un tassista per fare quel lavoro lì, per esempio. Allora, è sicuramente possibile. Abbiamo due tipi di figure che possono rientrare in un sistema di questo genere. Il primo è il tassista, che comunque non è un privato perché sta facendo un servizio pubblico, oppure quello che è il privato cittadino. Chiaramente possono essere introdotti queste due figure all'interno del servizio chiamata. Perché? Perché? Perché se si hanno bisogno di una o due, solo una o due persone hanno bisogno, certo, del trasporto, chiaramente non ci serve nemmeno un minibus da 9 posti per poter effettuare il servizio. E quindi si tratta solo di capire qual è il sistema di compensazione adeguato, parlo in termini di monetari, ma certo, anche in termini di richiesta di scambio di servizi per il tassista o per l'utente privato, in modo che venga ritenuto equo da entrambe le parti. Benissimo, allora adesso veniamo invece al secondo paradigma sul quale vi state esercitando, che diciamo è importante soprattutto sulle zone di confine, mi lasci dire così, cioè zone servite da diversi sistemi di trasporto pubblico. Sì, perché purtroppo per poter coprire tutto il territorio molto spesso si hanno delle sovrapposizioni tra due servizi, soprattutto nelle zone montane o di confine, come stavamo dicendo prima. In queste zone arrivano autobus o comunque servizi di trasporto pubblico da entrambe, diciamo, le province che coprono. Qui lei ha in mente una situazione tra l'altro precisa, no? Quella di Trento e di Bolzano. Esatto, e quindi sostanzialmente ci troviamo a fare lo stesso servizio da parte di due compagnie con costi altissimi per entrambe le compagnie, perché gli utenti sono pochi ma deve essere garantito il servizio, in più due compagnie devono effettuare lo stesso servizio. Quindi l'idea, chiarissimo, sì? È appunto di fornire un sistema di scambio profittevole di clienti tra quelle che sono le due compagnie, in modo da ridurre i costi per entrambi e far guadagnare appunto ad entrambi, sia in termini di soddisfazione dell'utente, che comunque si trova ad avere un servizio più reattivo, sia in termini economici, nel senso che comunque il costo del servizio si abbassa notevolmente. Concretamente questo cosa implicherebbe per l'utente? Dovrebbe scendere e prendere un altro mezzo? Oppure è come dire, è il sistema di trasporto che si fa carico di trasportare qualcuno che magari non è abbonato con lui e in cambio ovviamente ottiene lo stesso servizio dall'altra sistema di trasporto pubblico? Dal mio punto di vista dovrebbe essere il sistema di trasporto che si occupa di gestire appunto quello che è il passaggio all'altra compagnia, mentre il cliente non deve avere nessun disagio derivante da questo scambio. Quindi sostanzialmente semplicemente l'altra compagnia fa il servizio per la compagnia numero uno e l'utente riceve lo stesso identico servizio che aveva in precedenza. Penso a quelle situazioni in cui i confini, no? Tra l'altro i confini giuridici non è che necessariamente corrispondano delle barriere naturali, no? Soprattutto fra province. Quindi per raggiungere quel paesino che sarebbe molto più facile raggiungere magari da un'altra destinazione, compagnia, si allungano i percorsi, è questo, no? il sì, tema. È assolutamente questo. E poi anche nelle grandi città il problema è sempre lo stesso. Supponiamo, certo, di avere tante compagnie all'interno di una grande città, con tanti clienti che chiamano da tutta la rete cittadina. Chiaramente bisogna andare a misurare quanto è profittevole un cliente in base a dove è il deposito dell'azienda. Se il cliente è molto lontano dal deposito, all'azienda conviene cederlo ad un'altra azienda che è molto più vicina. Ecco, tra l'altro poco tempo fa abbiamo raccontato che logiche di questo genere stanno cominciando a entrare anche nella logistica delle merci, dove uno si potrebbe scambiare un pacco con un altro trasportatore. Grazie Valentina Morandi. A voi, buona serata. Va bene, cari ascoltatori, ci fermiamo qui, appuntamento a domani e buona serata anche da parte mia.